tag business partner. Stavo tentando di taggarti su Facebook per dire che nome e cognome, quelli che ti ho dato, sì, ma sto postando come pagina e adesso la pagina non ti permette più di postare, di taggare le persone. Fucking drama, davvero. Fucking drama ever. Comunque, benvenuti a Coxo Spaziale, il programma di arte contemporanea. Perché oggi parliamo di arte contemporanea con Maria Rosa Lamanna, sì, che è la leader of the pack di questo Maison 22. Maison 22. No, ma infatti sai che ieri pensavo, ma si dirà Maison 22? Ecco, Vendée? Che io i numeri in francese... 22, okay. Sì. Okay. In verità mi chiamano Mister, perché spesso mi firmo con una mr... Ah, e giusto. Viene detto Mister, quindi più che capo preferirei Mister 22, ok. Beh, ma Maison 22 invece ce l'ha la pagina Facebook, che sì, posso, ha la pagina, posso taggare Maison, forse sì. Riesco a no, non mi lascia fare niente, no, va bene, taggeremo in differita, ok, sì. Però Maison 22 esiste, se questa era la seconda domanda, esiste ancora e proviamo a lavorare, ci occupiamo di arte contemporanea, ma forse è più adeguato considerare l'associazione come una sorta di facilitatrice per le arti, quindi lavoriamo con i linguaggi della musica, della performance, dell'arte, del cinema e della radio ultimamente. E parte della gran musica della discoteca, yeah! Fantastico. E dove siete? Cosa fate? Bravissimo. Raccontami tutto. Siamo fai in via finta Miramonte. Che io non sappia nulla di te. Ok. Allora, l'associazione adesso ha una sede nuova in via Miramonte 4 e 6 a Bologna, Rione Mirasoli. Ah, ci sono i rioni a Bologna, non lo sapevo. Sì, eh sì. Vedi? Questo tra l'altro è molto particolare. Perché non vendono esotico. Le birre dopo una certa. Non si vendono le birre dopo una certa, ma anche dentro i nostri spazi è molto raro, insomma, consumare delle bevande. È possibile invece transitare, fare esperienza col corpo e costruire co-creando insieme alla comunità. Ci piace, insomma, immaginarla più così. E che tipo di esperienza si fa col corpo a Maison 22? Puoi camminare. Puoi farti delle gran camminate, entrare e uscire da via Miramonte, attraversare questi due civici, sono il 4 e il 6, mm-hmm. Sono due ingressi speculari, entrambi portano a queste due stanze adiacenti ma non comunicanti, che invece si collegano poi con una big surprise, che è questo cortile interno che protegge un po' tutta l'area. Quindi questo spazio si chiama l'appartamento. Mm-hmm. E siamo partiti proprio dall'idea di appartenere e appartarsi, che è il primo piccolo formato che inauguriamo proprio adesso. C'è stata la prima preview? C'è stata la preview il 13 con il concerto di Loop Uberto. Mm-hmm. Il 17 inizieremo invece con l'esperimento di radio collaborativa e continuerà questo formato cinematografico, per cui useremo le due salette per ospitare questo doppio cinema segreto. 333-180-94-94 se volete messaggiare Maria Rosa di Maison 22, lo potete fare sia con com'è, WhatsApp, Telegram o SMS. Mi piace troppo questa cosa. Vero? Leggerai tu eventualmente? Eventualmente leggerò io. Ok, senza censura. Senza pietà e senza censura. Senza censura. Ci sono tre cuoricini, però sono stati spediti alle 18:49. Oh, quindi non sono i miei. Per cui non sono per te, ahimè, sono per il nostro saudade. Fantastico Mario di Non è Fujiko, che salutiamo. E invece ti volevo chiedere, ma tu preferisci le canzoni che hanno un vago sentore di Natale oppure una canzone tipo, com'è che si chiama? La New Wave tristissima, no, tristissima non è. Io partirei con la New Wave tristissima. Vero? Sì. Okay. Allora poi ci arriviamo al Natale. Sì, in realtà non è New Wave tristissima, perché altrimenti si offendono i Carnage, bensì è un disco di post-punk crudo e diretto, dice. Vai. Il comunicato stampa, che esce oggi, è uscito, mi è arrivato l'email tipo mezz'ora fa. Esce oggi per Ice Cold Records Audio Globe. Il nuovo album dei bolognesi Black Veils, che si chiama Carnage. Carnage. Già stavo sbagliando stavo sbagliando tutto perché pensavo che fossero i Carnage con Black Veils, invece il contrario, Carnage, infatti. Io il francese non lo mastico tanto bene. Al contrario di te. Allora, scritto e registrato prima dello scoppio della pandemia di Covid-19, il terzo album in studio dei Black Veils, che fra l'altro sono bolognesi, è un disco di post-punk crudo e diretto, registrato e mixato per restituire l'impatto live della band. Basso violento, chitarre taglienti, bla bla bla. Carnage prende ispirazione dall'immaginario tipico dei Black Veils: tanto cinema, un po' di sano esistenzialismo, gli effetti a breve e lungo termine dell'insonnia, una dose spropositata di black humor. Direi che ce lo meritiamo. Ce lo meritiamo tutto. Andiamo ad ascoltarci. Ti volevo dire che l'album sarà presentato al Covo il 27 novembre, al Covo, okay, qua a Bologna. E adesso noi ci ascoltiamo September Kills. Privilegiato. Scusate, non so, ho spaccato i timpani. Ammettere che avevo scelto sto pezzo perché sei cattivissimo. No, ascoltandole tipo un mezzo secondo, perché ero di frettissima, invece ho scelto un gran pezzo. Sì. Perché il disco è uscito oggi, per cui andate, la distribuzione Audio Globe, andate da Audio Globe, che non so come, però. O al Locomotive il 27. O al Locomotive, no, al Covo. Al Covo, al Covo, il 27 novembre. Terribile. Dove il disco sarà presentato, il disco dei Black Veils. E qui invece abbiamo una... No, invece qui, esatto. Ah, la conosci, vedi? Ho fatto studi classici. Ah, vedi? Hai fatto studi classici. Di musica, sì. Anche. Molto bene. Allora, cosa... Ah, sì. Oddio. Sta suonando un telefono. Ecco, così direi che si sente, però non ci risponde. Perché una cosa non abbiamo detto, che Cosa? Tu sei una potenziale co-conduttrice di Cox Spaziale, perché io sono ancora sei senza. Grata, eccoci, di questa. Eccoci qua. Chi c'è? Una co-conduttrice lontana, una Lucia. Ciao, si Luz. Fa sentire la mia presenza in radio. Sì. Com'è, sai, che ti... però. Aspetta che ti alzo un po', vedere se ti si sente meglio. Ok, come stai, cara? Sei... Bene, molto meglio, grazie. vi saluto, io stavo sentendo in streaming, sono un po' indietro rispetto alla trasmissione. Ok, per cui stavi ancora sentendo il pezzo, ok. Fantastico. Senti, ma perché ci ascolti in streaming, che sei a un chilometro da qua? Per comodità, perché il mio compagno ha preso una cosa complicatissima che lui chiama radio, ma in realtà è una specie di astronave. Ok. E per farla funzionare ho bisogno di accendere il computer, collegarla a wifi, ma preferisco lo stream direttamente dal computer. Capisco, quindi, no, in effetti è molto più comodo. Certo, dai, come state voi? Noi stiamo bene, siamo qui che stiamo facendo Cox Spaziale. Siamo coxati. Fantastici. E devo dire che la mamma ha una voce... Oh, mi piace la mamma. That's mommy. Esce proprio bene. E chissà se ci stanno ascoltando i nostri della terza A. Ah. Li saluterei, così ci togliamo il pensiero. Tu sappi che noi abbiamo dato questa informazione alla classe dove siamo tutte e due. È vero. Abbiamo chiesto ai nostri alunni di seguirci. Ah, fantastico. Allora ci possono messaggiare al 333-180-9494. Sappiate che se scrivete delle sconcezze io le dirò in diretta. Assolutamente, senza filtri. Ah, vedi? Fantastico. Molto bene. Da. Momento amore. Dai, allora, come ti dicevo, quando ci siamo sentiti, che appunto annunciavo la mia impossibilità di venire in presenza, ho fatto i compiti questa settimana. Sì. Sono andata alla presentazione della rivista Fuori Registro da Veronica alla Galleria Più. Ah, certo. Dove erano presenti la Maria Rosa Sossai, che è diciamo il cuore pulsante di questa rivista, la curatrice. Mm-hmm. C'era anche l'editrice della rivista, c'era Chiara Pergola e c'era il direttore del Mambo Lorenzo, Spalli, che salutiamo. Mm-hmm. Che salutiamo, e mi sento di dire in anteprima, poi farà lui attraverso i canali ufficiali, ma siccome la notizia è abbastanza importante, mi sento di dire in anteprima questa cosa che lui sta provando a fare, cioè è un progetto in cui crede fermamente, cioè quello di replicare l'esperienza positiva che è stata quella del Forno del Pane, mm-hmm, in maniera più ampia, destinata non soltanto agli artisti del circuito bolognese, ma aperta a tutti, e in una sede diversa che non sarà quella del Forno del Pane, perché ovviamente adesso è la sede delle mostre temporanee, però utilizzando altri spazi del comune, adibiti a studi per artisti. Hai capito. E quindi evviva, evviva. Ci hai dato uno scoop notevole. Infatti volevo dirla questa cosa, ero contenta per noi che eravamo lì, ho detto userò la radio per replicare questa informazione preziosissima. Lui ha detto che sono arrivati per 12 posti, mm-hmm, sono arrivate più di 200 richieste. Certo, 219. Quindi, per essere preciso, io stavo seguendo tutto alla lettera, perché fra l'altro ero uno dei pochi che poteva entrare dentro al Forno del Pane a vedere che cosa succedesse, perché era nel giro di 50 metri da casa mia, per cui non mi multavano. Sì, esatto. E quindi lui era felicissimo perché tutti avevano risposto a questo appello, però ha detto: se soltanto nella cerchia delle mura della città di Bologna, infatti, cerchia delle mura in senso metaforico, ovviamente, certo, però, c'è questa fame, c'è questa richiesta, è una cosa bellissima per noi, perché tutti hanno, però vuol dire che è anche un problema. Ah, certo, il problema degli affitti degli spazi a Bologna, che sono altissimi. Esatto, esatto. E questo taglia le gambe a tantissime ricerche bellissime che possono essere invece. Ma tanto Matteo Lepore ci sta ascoltando, perché è un nostro fan e sicuramente farà qualcosa a riguardo. Ah, sì. No, ma ci speriamo tutti, lo crediamo, lo vogliamo fermamente. E poi l'altra cosa che ho esperito in questa bellissima conferenza stampa è stato il gioco di Chiara Pergola. Tra l'altro mi sono sottoposta io un po' per ridere, e se volete lo replichiamo, tanto è brevissimo. E allora si chiama il gioco, ed è contenuto nella rivista Fuori Registro, che si può acquistare online. Okay. Non ci sono più copie da da Veronica Galleria Più, ma okay, si può acquistare online. Mm-hmm. Si chiama la rivista Fuori Registro, quaderno di pedagogia e arte contemporanea. Questo è il numero 2 mm-hmm. ed è sul bene comune. Ho capito. Allora, la nostra amatissima Chiara Pergola ha fatto questo test ispirandosi ai test che si trovano di solito sulle riviste femminili d'estate, no? Mm-hmm. Con il tuo carattere. Ah, certo. Da che arte stai? Ok. E allora, se volete che chi ci segue, ma anche voi in studio, potete far così, io adesso vi dirò una serie di definizioni o di ipotesi. Voi potete scegliere e poi vi segnate. Ok, allora facciamo rispondere a Maria Rosa, dopodiché io ti segnalo a te le risposte, perché so che tu non senti quello che Maria Rosa dice, perché è dall'altra parte dello studio. Ok, dai, vai perfetto. Con le domande. Allora, in realtà sì, sono delle definizioni, tu devi scegliere una di queste quattro che io ti dico. Okay. L'arte è un gioco di squadra, un gioco di società, un gioco d'azzardo, uno dei giocatori. Wow, faccio un mashup. Allora, mi devi dire la tua risposta, così io ti dico cosa farei segnare. Un mashup tra. Lei farebbe un mashup tra. Deve sceglierne una. Dai, un azzardo, mi piace sempre crederci. Un azzardo, dice. Allora, metti, segnati un. Aspetta, adesso me lo segno io. Va. Facciamo così, mi segno io le sue risposte. Brava. Come si vede che abbiamo preparato tutto, infatti, siamo preparatissimi come al solito. Tra l'altro la musica di sottofondo c'è tipo una roba matrimoniale, non si capisce che va bene, appunto, un mashup così. Vai. Allora, al vernissage parli con il curatore, parli con l'artista, parli con gli amici, non parli. Ok. Parlo con l'artista. Parla con l'artista. Io invece parlo con l'aereo che sta passando. Allora, l'importante è vincere, oppure partecipare, oppure stabilire le regole, oppure godersi la partita. Godersi la partita. Dai, sono una buona. È una buona. Dai, no, io ho scelto vincere subito. Ah, cavolo, vedi, è interessante. Sì. Tra l'altro, guarda, veramente, tra le risate del pubblico, sì, dai, basta, sta cosa di vincere è importante. Sì, no. È buonissimo. Okay. Ci sono gli studenti. Ok, un evento degli ultimi 10 anni, importante per l'arte italiana. Macao e l'occupazione della Torre Galfa, oppure l'istituzione del Maxi, oppure la retrospettiva di Cattelan al MoMA, oppure il record da Christie's del Salvator Mundi di Leonardo. Oh my god. Effettivamente, che scegliere. Non lo so, così, con un po' di nostalgia ricordo che l'esperimento milanese aveva dato Cattelan al MoMA. No, quello di Macao mi aveva dato all'epoca tante suggestioni. Vota Macao. Benissimo, ok. Allora, al tuo vicino di casa consiglieresti di leggere Oreste, come spiegare a mia madre quello che faccio serve a qualcosa. Oppure Il giro del mondo dell'arte in 7 giorni. Oppure Capire l'arte contemporanea di Angela Vettese. Oppure Le interviste di Obrist. Okay. Il giro del mondo, a chi lo devo consigliare? Al vicino di casa. Sì, ha votato Sarah Thornton, Il giro del mondo dell'arte in 7 giorni, che fra l'altro è un libro meraviglioso. Okay. Io forse avrei votato la Vettese. Andiamo pure avanti. Tu avessi votato la Vettese, io ho votato Obrist, cioè il mattone delle interviste di Obrist. Ma sono una secchiona, mi devi perdonare. Ah, capisco. Sai che quello è il mio limite. Okay. Per spostarti da Cassel a Münster, scegli il treno, bla bla car, un'auto a noleggio, un Westfalia. Da dove? Vai, buttatevi. Da Kassel a Münster. Ok, cosa devo scegliere tra? Un BlaBlaCar, un Westfalia. Un'auto a noleggio, o il treno. Andrei in treno, se possibile. Treno, da persona normale. Quanti mila metri? Esatto, allora, il treno. 20 chilometri saranno. Ok. Ok, poi quest'estate vorresti un invito per... Io qua non ho avuto dubbi, però mi ha letto nel pensiero il mio sogno proibito. non ve lo dico subito, Stromboli per Volcano Extravaganza, San Cesario di Lecce alla Fondazione Lac au Lemon, una residenza a Villa Medici, una borsa di studio alla Fondazione Olivetti. Beh, io quindi borsa di studio Lecce subito. O la residenza a Villa Medici Olivetti. O una borsa di studio alla Fondazione Olivetti. Olivetti, vota Maria Rosa, vota Olivetti. Voglio subito. Quello. Okay. E tu invece Lac au Lemon. Lei ha Vulcano. No. Stromboli. Stromboli, hai capito. Sì, è il sogno segreto. Allora, per una mostra importante... Cioè, ma quante domande sono? Non possiamo continuare così per questa cosa. Cioè, questa cosa non interessa a nessuno, a parte me, te e Maria Rosa. Ah, ok, grazie. Ma avrò perché... il profilo, chiedi se alla fine ho... Alla fine certo che avrai... Ok, vai con l'ultima domanda. Allora, per una mostra importante offri caviale champagne o finger food o frutta di stagione o solo arte? Solo arte. Allora, la nostra Maria Rosa ha una prevalenza di cuori e picche, perché qui c'è cuori una... e picche. Arte come risorsa comune, sei pienamente del regno dei commons, l'arte è una risorsa essenziale e come tale nessuno può esserne escluso. Tuttavia, avendo studiato Benjamin, sai bene che nel momento in cui l'aura dell'opera si sostituisce il valore, il valore di esponibilità, la distribuzione diventa cruciale ed è l'attenzione stessa che può essere sottratta. Dove tutti si mostrano, non tutti possono mostrarsi visibilmente. Questa è la primissima premessa, perché è molto più forbita. E la tua biennale è All the World Future di Endenzor. Perdonatemi per la tua opera Group Material Anti-Baudrillard Resistance. La cercheremo. Questa è l'opera di Maria Rosa Laman. Ecco, è divertente il testo, molto ironico, Molto ironico, ci sono dei passaggi, soprattutto nella parte in cui dà la spiegazione dei risultati, che sono veramente interessanti. No, infatti mi hai incuriosito moltissimo. Esatto. E naturalmente metteremo il link a dove comprare il magazine su www.coxospaziale.blogspot.com. E Lucia, io ti ringrazio tantissimo, ma ti devo segare perché è l'ora delle pubblicità delle 19:34. Siamo in ritardo di 4 minuti. È stato bello averti qui. Ci vediamo lunedì prossimo, spero. Spero anch'io. Ciao, Luz. Arrivederci. Ciao. Buona continuazione, vi sento in streaming. Ok, ciao. Ciao. Ciao, Luz. Successo. Sono Cesare Pietro Iusti e stai ascoltando Coxo Spaziale. Hai capito? E stai ascoltando Coxo Spaziale. Siamo ancora qua con Maria Rosa, la manna di Maison 22. Ti adoro quando parli in francese. Cioè, prossima puntata tutta in francese. Allora, sì. Infatti volevo Maccheronico, esatto. Magnano. Alla sì. Fulvio Abbate, praticamente. Sì, sì. Che quando fa il marchese parla così e dice che il 9 novembre è uscito Far Side, il nuovo singolo natalizio di Jenny Owen Youngs, che naturalmente Chiara Pergola, che ci starà ascoltando, conosce benissimo, perché l'ho massacrata con Jenny Owen Youngs, che come sapete, come forse chi mi ascolta sa che è la mia cantante preferita, e stavolta è uscita con un pezzo, anzi con due pezzi, uno molto natalizio che non sentirete mai perché io odio il Natale, e invece Fireside lo ascoltiamo adesso, ed è lei con Tancred e John Mark Nelson, che è una tripla collaborazione. Io non conosco John Mark Nelson, mentre invece conosco Tancred, che è anche sua moglie, la moglie di Jenny, per cui surprise, me l'ero già andata a ascoltare. Allora andiamo a trovare questo Fireside, che è uscito il 9 novembre, ed eccolo qua, ascoltiamo. Mm-hmm. Stepping all night long, drum love. Era troppo natalizio? No, pensavo al potere del teletrasporto attraverso i suoni, no? Ti permettono di andare in un altrove così prossimo, se solo avessimo più coraggio di ascoltarne quasi sempre. Infatti, ovunque di più. No, in effetti è vero, anche perché poi alla fine della canzone ci sono questi rumori, un po' campanine, di, non so, suoni un po' ancestrali, esatto, so. Sì. e anche un po' di rumori casalinghi che ti fanno pensare appunto di essere di fianco a un camino con Jenny Owen Youngs, ma questi sono i miei sogni perversi. E comunque continuiamo con Maison 22 invece. Sì. Cos'altro mi racconti? Allora, inauguriamo questo ciclo di appartati appunto a novembre, e dicembre ci vede già coinvolti all'interno del Billboard Bull Festival 2021. Dall'1 al 5 dicembre. Gli spazi sono sempre quelli dell'appartamento e per questo importante appuntamento cittadino, non con un'arte minore, no? Come generalmente viene additata, insomma, in qualche misura, ma Bologna è madre putativa, credo, del fumetto, delle graphic novel, un po' per tutta Italia, secondo me. E quindi per questa importante occasione ospitiamo Percy Bertolini con un lavoro espositivo estremamente corposo, che nasce da un libro che è appena uscito per Edizioni Diabolo a Torino, e la storia racconta di questo individuo che non ha un genere, non è neanche completamente umano. E che viene la storia parte con un rapimento, con una costrizione. Viene preso e cercato di normare in qualche misura. Quindi la storia inizia con questo impeto e questo diritto alla libertà di essere, di esprimersi, che è fondamentale. E il libro si chiama Da sola, sì. E Percy Bertolini è una giovanissima artista, e viene da Ancona, ma ha studiato a Bologna, è una street artist, fumettista, pittore, Peter. E ha pubblicato, insomma, Non fissare per edizioni minoritarie, da poco ha autoprodotto la serie a fumetti Paolo Fox. E cosa dire, in questo testo che non ha molte parole, perché molto probabilmente, come dice lei, ogni segno trascinato di matita su un foglio diventa narrazione, come ogni linea dipinta diventa narrazione. E da sola percorre questa città brutalista, che è una sorta di sintesi di tantissime città con questo tipo di architettura, quindi una città immaginaria, e noi la ospiteremo dentro gli spazi dell'appartamento che appunto connette la città di Bologna a questo, a questa dimensione coesistente di realtà. Grande. Diciamo così. E c'è arrivato un messaggio da Andrea. Ciao Maria Rosa, sono una tua alunna. Andrea. Io l'ho pronunciata in americano. Salve prof Lamberti, anch'io con la musica mi teletrasporto in altri mondi, dice. Fantastica. Grande. Grazie, vedi? Che gioia. Che gioia sentire Andrea. Ok, e invece adesso tocca raccontare che cosa succede sabato. L'angolo della menzione. Perché tutte le menzioni di oggi sono succedono tutte sabato. Allora, la prima inaugura dalle 11 alle 20, per cui è la prima, ed è una collettiva che si intitola La realtà, i linguaggi. Maurizio Cattelan, Maurizio Mochetti, Maurizio Nannucci, tre Maurizi, un Giulio Paolini, Agnieszka Polska, Rafael Rosendahl, Thomas Saraceno, Nedko Solakov, e nella mostra appunto La realtà, i linguaggi. Questa è a cura di Fabio Cavallucci. Uè. Alla Galleria Enrico Astuni. Analizzando il lavoro di una serie di eccellenti artisti internazionali, la mostra vuole affrontare la sfida di rendere popolare un tema apparentemente distante dall'interesse quotidiano, il rapporto tra il linguaggio e la realtà. Terreno scivoloso, in quanto la nostra cultura è ormai abbastanza matura e smaliziata per considerare il linguaggio immagine della realtà e persino la realtà stessa come esistente in assoluto. Allo stesso tempo però la pratica produttiva ed economica della nostra società, concentrata sul fare, finisce per tralasciare queste questioni, senza considerare quanto invece il linguaggio influenzi la nostra possibilità di comunicazione e i contenuti che vogliamo esprimere. La mostra appunto a cura di Fabio Cavallucci inaugura sabato alla Galleria Astuni e questa è in via Jacopo Barozzi 3 a Bologna. Poi, sempre sabato, dalle 16.30 abbiamo Avres, Cesare Zavattini e Marcello Tedesco insieme al Capannaun, non so come si pronuncia. Non lo so, perché in realtà è scritto in tedesco, ma si dovrebbe pronunciare alla bolognese, per cui al Capannaun. Capannaun annuncia il prossimo progetto espositivo. Si tratta appunto di Avres, mostra che pone in dialogo il maestro del neorealismo Cesare Zavattini, Luzzara 1902, Roma 1989, e l'artista Marcello Tedesco, Bologna 1979. Adesso sappiamo quanti anni ha. Marcello. Esatto, che salutiamo. Salutiamo. La necessità di vedere l'arte come essenzialmente la capacità di introdurre nel mondo nuovi contenuti di pensiero e dunque nuovi componenti accomuna i due artisti. Avres, che vuol dire io vorrei in dialetto luzzarese, si rifà al titolo dell'omonima raccolta di poesie di Cesare Zavattini pubblicata da Bottazzi nel 1986 ed esprime nella particolarità di questa circostanza il desiderio di dar voce all'impensato, di sciogliere e ricreare collettivamente un nuovo sguardo e una nuova visione sull'essere umano. Questo appunto è al Capannaun in via Imelden Lambertini 5 a San Lazzaro di Savena e come al solito troverete il link all'evento su coxospaziale.blogspot.com. Sempre sabato 20 inaugura la mostra Elisa Caldana e Aki Nagasaka Times of Crisis a cura di Giulia Pezzoli nell'ambito del programma di Residenze Rose edizione 2021. Times of Crisis costituisce la restituzione pubblica del lavoro creativo che le artiste hanno sviluppato durante un soggiorno a Bologna della durata di 8 settimane, iniziato nella seconda metà di settembre 2021 come ospiti della residenza per artisti Sandra Natali del Mambo. Fantastico. Come previsto dal bando di selezione, Elisa Caldana e Aki Nagasaki hanno lavorato a un progetto espositivo che, partendo da una ricerca iniziata nel 2018 a Tokyo durante la loro residenza al Tokyo Arts and Space, è stato poi ritagliato sugli spazi della settecentesca Villa delle Rose, ampliando al contempo il raggio di azione al contesto cittadino bolognese. E questo è a Villa delle Rose in via Saragozza 228, dal 20 novembre al 23 gennaio. Sempre da sabato inaugura, apre anzi, al Museo Civico Archeologico una mostra che si intitola Faience, presumo, Faenza, dall'antico Egitto al contemporaneo. La parola Faenza ha una duplice valenza semantica, indica il toponimo Faenza, località famosa in tutto il mondo per la produzione ceramica. Così come le ceramiche a impasto poroso e colorate dotate di rivestimento. Tali impasti possono essere a base argillosa o silicea, stone paste, o avere un rivestimento vetroso trasparente, vetrina, o opaco smalto. Non so quanto tutto questo era importante per... fatto sta che comunque il Museo Civico Archeologico di Bologna, il Museo Internazionale della Ceramica di Faenza, in collaborazione con i Musei Civici di Arte Antica di Bologna e la Bottega d'Arte Ceramica Gatti di Faenza, intendono dedicare un focus tematico all'ambivalenza semantica di questa parola attraverso un percorso esemplificativo e diacronico che, partendo dalle faenze silicee dell'antico Egitto, definite faience negli studi di settore, percorrerà gli sviluppi che di questo materiale ne fece il mondo islamico fino agli esiti rinascimentali in maiolica, faenza smaltata, e all'arte contemporanea di ambito faentino. Questa appunto è aperta dal 19 novembre fino al 30 gennaio al Museo Civico Archeologico, per cui sarà una mostra da non perdere. Adesso, se non sbaglio, giovedì c'è la conferenza stampa e andrò a sentire com'è questa cosa, perché naturalmente la ceramica a me piace un casino. Eccoci qua, abbiamo finito, per cui adesso possiamo... Allora, intanto posso salutare Lucia e ringraziarla, anche perché prima non l'ho fatto. Infatti. E invece ci tengo tantissimo, soprattutto per aver finalmente un profilo altro di me. Un profilo altro di te, cosa vuol alto dire? O altro? Alto, no, altro, per il test, alto. No? Adesso possono, certo, ah, beh, chiaro. Ho un po' di valore all'interno. Infatti, assolutamente. Mi ha legittimata questo test. E quindi sì, salutiamo Lucia. Love is a burning thing. It makes a fiery ring. I fell into the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down as the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire. Questo è il rifacimento di The Ring of Fire di... come si chiama? Non lo so. Dai, famosissimo. Dai. Oh, dai, non mi però viene. Pensavo che il levare dia la possibilità di una felicità infinita. Vero? No, infatti la musica reggae ti mette allegria immediatamente. Subito. Infatti ringrazio i Bad Room Promotions che mi mandano sempre dei gran pezzi reggae, sempre. Questo è uno dei più allegri in assoluto. E generalmente dai, li destini alla fine. Chiama? Come cavolo si chiama il re del country americano? Come fa a non venirmi in mente? Non so darti questo assist. Incredibile. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down as the flames went higher. And it burns, burns, burns. The ring of fire. The ring of fire. And it burns. giustamente mi scrive, mi scrive Giffo coglione è Johnny Cash, come cavolo faccio? Me l'hanno scritto. Che sei cattiva allora. Giffo è cattivissimo. Ma sai che mi hanno scritto Johnny Cash in due. Grazie Adelina e anche guardiamo chi altro grazie anche Eleonora. Che ringraziamo bello. Per l'amnesia. Sì. No, oddio, mi telefona anche. No, non posso. Abbiamo creato un caso. Non posso risponderti, mi dispiace. No, ho risposto. Aspetta, mi sono sbagliato e ho risposto. Aspetta. Cosa vuoi? Ma è Johnny Cash, ma sei proprio un coglione. Ma succede che uno non gli venga in mente Johnny Cash, eh? Cioè. Johnny Cash, Johnny Cash, ma infatti mi veniva la C però. La Ash, no. Questo invece è O.C. Roberts and Friends. Naturalmente, Ring of Fire. Brucia. Ring of Fire. Canzone che fra l'altro ha fatto una cover anche di anche Jenny Owen Young ha fatto una cover di Ring of Fire, fantastica. Ring of Fire. No, è che ci sta finendo il tempo, tu invece mi devi raccontare, sono i 56, è incredibile. Perché siamo dei grandi ascoltatori. Siamo dei grandi ascoltatori. Più che chiacchieroni, dici? Infatti. No, allora velocissima, dai, velocissima. Cos'altro mi devi dire? Prima sulla che... scia di questa di questo sound così felice, annuncio... Ti sposi, annuncio una cosa ancora più interessante per l'umanità, okay. Che potrebbe essere proprio questa. Sì. Riusciamo finalmente a presentare il lavoro di un artista che è stato in residenza con noi insomma per un bel po' di tempo, perché la call è stata lanciata durante il 2020, la call Locus Amenos, e che appunto indagava la relazione tra corpo, città e natura, e l'artista Jacopo Valentini ha realizzato questo corpus fotografico, questo lavoro sugli archivi e l'architettura della città, la relazione di Bologna con appunto gli elementi naturali e immateriali, e ne abbiamo fatto un catalogo, verrà presentato durante i giorni di Art City 2022 a gennaio, molto probabilmente, segnatevela così, 21 gennaio, e siamo molto molto contenti. Dici che porta male? No, hai fatto benissimo a dirlo, anche così ci così tutti ci gli opening li fate in un altro giorno. Infatti, esattamente, perché anche quest'anno Art City sarà un discreto delirio. E comunque noi non daremo mai tartine, io ormai l'ho detto anche nel... Ah sì? L'ho detto anche invece hai fatto male a dirlo, perché mi sono giocata, ti sei giocata una fetta di partecipanti. Perché, invece, per esempio, se vi interessano le tartine, la mostra da Astuni sicuramente di solito ha sempre un catering notevolissimo. Grande, ma noi siamo in biblioteca, quindi potremo mai. Assolutamente. No. Archiginnasio. Archiginnasio, ci mancherebbe che uno si metta a mangiare all'archiginnasio. È impensabile. Bene, io spero che tu abbia detto tutto quello che dovevi dire, a parte il fatto che sei diventata una co-conduttrice potenziale anche tu, per cui ho fatto il mio per il cui mio primo non test. Non so se vuoi la domenica lunedì prossimo, io ormai sono andato, lunedì prossimo se ci vuoi sono le candidature tornare, ufficiali. Certo, se vuoi tornare ti ci prendiamo. Sono i provini. Ah, mi fate subito un contratto? Subito un contratto così. A tempo determinato o indeterminato? A tempo indeterminato. Indeterminato. Wow. Sarai co-conduttrice potenziale per sempre. Come Fedra. Fedra è la co-conduttrice ufficiale. Come Chiara e come Lucia. Io però ho un problema qua, che il tablet non ha più power, nel senso che... Che ci spegneremo così. Ci spegneremo così. Da un momento all'altro. Esatto. Mentre continueremo a dire. Così. Mentre continueremo a dire questa cosa. Così. Con questo basso livello di radiofonia, ascoltiamo la sigla. Do you wanna come to Jake's house? Just any day, every day. questa era Coxo Spaziale e io ero Stefano W. Pasquini e con me c'era Maria Rosa Lamanna. Yeah, a lunedì prossimo. Ciao. Just